Quel vestito da dove è sbucato? Che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, il tuo passo è da donna ormai. Telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma io so che vergogna di me. La porta chiusa male tu, specchio il trucco il seno in su, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Figlia è una cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e vuoi, ma viste in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto tempo calzaretti ho preso già il posto dei calzettoni. Tu ti ricordi quando ho scritto la canzone? Tu ti sei tutto di me. Io dovrei fare due calcoli. Te lo posso dire domani sera? Sì, ma prima della trasmissione. No, perché questa non è in diretta. Ma certo, lo so. Allora domani, prima della registrazione, certo, vengo a dirti quando ho inciso la canzone. Sì. Prima della registrazione. Prima della registrazione.